palla ovale. Buon pomeriggio a tutti da Carlo Genta, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia. Un saluto va anche a Giacomo Bagnasco, che di solito al sabato a quest'ora è con noi. Oggi non può essere con noi, ma partiamo naturalmente come ogni sabato dal rugby, che sta vivendo il secondo weekend di coppe della stagione. Poi parleremo anche di Damiano Cunego. Come avete sentito nel GR, entra nel club ristrettissimo di quelli che l'hanno vinto tre volte, e sono nomi grandissimi del ciclismo come Pellissier, Francese, Girardengo, Bartali, Tano Belloni, Sean Kelly e adesso anche Damiano Cunego. Binda ne ha vinto quattro volte, Coppi 5. Insomma, Damiano Cunego potrebbe avere questi due dei del ciclismo nel mirino, ma soprattutto si conferma, non so come la pensate voi, uomo da grandissimo campione da corse di un giorno. Poi ne parliamo con calma, così come con calma parleremo della mattina dei motori, della pole position di Hamilton, con Raikkonen accanto come negli ultimi Gran Premi peraltro, Massa ad inseguire dalla terza linea della griglia di partenza, accanto a lui Alonso, e si annuncia battaglia grande domani mattina, ore 9 il via. Parleremo anche di calcio, intanto per ora mi limito a darvi i parziali di Serie B. Parma-Empoli 0-0, il Mantova che conduce 2-1 a Sassuolo, è segnato Passoni al quinto della ripresa dopo Zampagna Caridi nel primo tempo, Grosseto 4 Salernitana 2, siamo a inizio ripresa su tutti i campi. La Triestina vince 1-0 a Brescia, gol di Dalla Rocca, segnato al secondo minuto della ripresa, Avellino Bari 1-1, Pellicori e Colombo. Il Vicenza in vantaggio 3-0 sul campo dell'Albino Leffe con Sgrigna, Zanchi e Bielanovic. Cittadella Livorno 0-0, Frosinone Rimini 1-1, Eder è vantaggiato, Pisa Treviso 0-0. E ieri l'Ancona ha battuto 3-1 il Modena, lunedì si gioca Piacenza-Ascoli. Io saluto Gianluca Barca, voce che ben conoscete non solo attraverso i microfoni di Radio 24 ma anche attraverso i microfoni televisivi, dato che è uno dei commentatori, tanto per dire, delle Sei Nazioni. Ciao Gianluca. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi è pomeriggio di Heineken Cup, abbiamo visto Treviso perdere con il vice campione d'Inghilterra dei Leicester Tigers, 60-16 il punteggio, Treviso in partita un tempo. Ieri abbiamo visto un'altra vittoria in terra francese dopo quella di Viadana, con il Petrarca che va a vincere a Bourgoine 29-28. Due vittorie nella Coppa Minore portiamo a casa in questo primo giro. Stasera gioca Calvisano alle 18 contro Biarritz. A Biarritz non vedo grandi chance. Ecco Gianluca, queste due vittorie in Francia di Viadana e Petrarca cosa significano per il nostro rugby? Di Viadana settimana scorsa e di Petrarca ieri. Sono un buon segno e sono nella Coppa, diciamo quella che vale un po' meno, quella che corrisponde, se facciamo un paragone calcistico, alla Coppa UEFA, e quindi dobbiamo forse ammettere che quello è un livello nel quale noi siamo più competitivi. La Heineken Cup probabilmente è superiore in questo momento alle nostre possibilità, alla nostra categoria. Sì, però sarà il caso prima o poi di arrivare quantomeno a giocarcela, no? Magari non tutte le partite. Capisco che Leicester Tigers sono una delle squadre più forti del mondo, probabilmente le squadre più forti del mondo, però insomma oggi è altra lezione. Io leggo le parole di Del Po, Marc Del Po, allenatore di Calvisano, campione d'Italia in carica, che ha deciso di lasciare a fine stagione Calvisano e il rugby italiano per tornare a casa. Dice: voglio di tornare a casa dopo tre anni e questo ci sta. Poi dice delle cose che io continuo a pensare e che sono: in Europa non giochiamo ad armi pari, le quote fanno male ai talenti azzurri perché così hanno il posto garantito e non lottano per la maglia, il Super 10 non dà nulla ed è indegno dell'alto livello, servono tre selezioni per le coppe ma la FIR non sembra pronta a una scelta del genere. Io condivido le parole di Del Po. Ma guarda, il discorso secondo me è molto molto complesso e lo diventa a maggior ragione quando viene interpretato da personaggi come Del Pux, che avendo un background e una cultura francese chiaramente viene in Italia con grande ambizione e ci tiene a fare bene. D'altra parte io credo che noi dobbiamo anche prendere atto di alcuni fatti. Il primo è che questi risultati sono la fotografia della nostra dimensione. Cioè io faccio un esempio molto banale, noi conosciamo tutti più o meno bene il calcio. Bene, io non mi ricordo una squadra danese o una squadra greca, cito Danimarca e Grecia perché sono due nazionali che hanno vinto il campionato europeo comunque, quindi voglio dire sono riuscite anche in certi momenti ad essere competitive, dico non mi ricordo una squadra danese o una squadra greca capace di far bene nella Champions League. Questo vuol dire che quei paesi non riescono ad esprimere club competitivi a un certo livello. Ebbene, nessuno ha mai chiesto al posto loro di competere con due squadre nel campionato italiano o nel campionato tedesco o nel campionato olandese o in quello spagnolo, perché altrimenti il rugby di quei paesi non crescerà mai. Cioè, ma quindi sport... bisogna rassegnarsi? No, però voglio dire che lo sport è anche brutale, secondo me. Voglio dire, per tornare a quel paragone, non è che il Panathinaikos o la EK di Atene, parlo di calcio, dicono se il calcio greco vuole crescere noi dobbiamo giocare nel campionato italiano con due squadre. Cioè, bisogna lavorare a fondo e cercare di partire dai vivai, sapendo che comunque i paesi più evoluti, più ricchi e più potenti si approprieranno dei tuoi migliori talenti, ma questa voglio dire è la storia dello sport, da che mondo è mondo insomma. Allora noi dobbiamo accettare questa realtà, cercare di lavorare bene, cercare di produrre dei campioni, i migliori andranno comunque sempre all'estero perché c'è un'attrazione che è impossibile da combattere, però voglio dire piano piano noi possiamo migliorare. Detto questo, sicuramente il dibattito è aperto, cioè si può studiare il modo di competere, si possono fare due o tre selezioni per fare la Heineken Cup, però io so che la cosa per esempio è all'ordine del giorno dell'organismo europeo che regola le coppe e loro hanno già chiesto, ma due o tre selezioni? Di che tipo? Cosa significa? Che squadre sono? Cosa sono? Delle finte nazionali mascherate? Perché questa è una competizione per club. Allora sono tre selezioni che si qualificano attraverso quali campionati? Non giocano il campionato? E allora cioè, pongono delle questioni che forse noi al loro posto porremmo uguali. Sì. No. Ma cioè, voglio dire, è un ragionamento molto complesso. Non è che la soluzione è così facile. Vedi, poi alla fine noi ci mettiamo quelle 5 volte l'anno, ci mettiamo il vestito buono e partecipiamo al banchetto reale. E questo ti fa dire, ma allora, e cresciamo, perché lì la crescita c'è stata dall'era Costa ad oggi. Ci mettiamo il vestito buono, andiamo al gran ballo e poi torniamo nel sottoscala con i nostri club. È troppa la distanza, è troppa la distanza tra quel giardino imperiale e l'orto che vanchiamo poi tutti i sabati. Ma mi verrebbe, Carlo, da rispondere in un modo banale. Questa è una radio che appartiene a un gruppo che si occupa fondamentalmente di comunicazione economica e quindi la risposta dovrebbe essere è l'economia bellezze, insomma. Sì. Cioè, e d'altra parte io so che ci ascoltano appassionati di rugby, ma mi piace fare dei paragoni calcistici perché forse sono più semplici. Tu pensa all'Olanda, che è una nazione calcisticamente evoluta, che ha una grandissima tradizione, che è arrivata due volte in finale ai campionati del mondo, tuttavia i migliori talenti olandesi da parecchi anni a questa parte giocano nei campionati italiani, spagnolo, inglese, e perché le risorse olandesi non permettono più loro di rimanere a giocare nei club di casa, l'Ajax, il PSV. Questi club faticano, però come rispondono? Rispondono cercando di lavorare con i vivai, di continuare a sfornare giocatori di buona qualità, anche se credo l'Ajax dei tempi d'oro non la vedremo più. Io non voglio dire che è il nostro destino rugbisticamente parlando, però noi a proposito di pallovale siamo arrivati al banchetto, come hai detto tu, dei grandi da pochi anni e adesso vogliamo subito, sgomitando i posti migliori. Insomma, abbiamo ottenuto buoni risultati e una buona visibilità con la nazionale. Per i club forse c'è bisogno di lavorare molto di più, perché lì subentrano anche condizioni differenti, ci vogliono risorse diverse, più pubblico. La difficoltà sono queste, ecco. Gianluca, io ti ringrazio, a prestissimo. Grazie a voi. A prestissimo con Gianluca Barca, che avremo modo di ascoltare non solo su Radio 24 ma anche nelle telecronache in epoca di Sei Nazioni sulla 7, insomma. Palla ovale. Dopo la chiacchierata con Gianluca Barca, che ha lasciato sul tappeto vari temi su cui potete anche intervenire se volete, 800 24 00 24, è numero verde, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Altro ospite di grande prestigio rugbistico ormai, nostro amico Martin Castrogiovanni. Ciao Martin. Ciao, buonasera. Oggi l'Ester ha vinto a Treviso senza di te, ma tu come stai adesso? io sto meglio, dai. Sto cominciando a correre piano piano, non molto, ma piano piano, sembra un ciccione di 300 kg, comincia a correre, non si può muovere, però a parte quello, piano piano mi sto muovendo, e quello importante, speriamo. Mi hanno detto dicembre, gennaio, io spero il prima possibile. Con la maglia delle Tigri, ma anche con la maglia azzurra, perché ovviamente adesso parte la stagione dei test match, dovremo fare a meno di una delle nostre stelle, cioè Martin Castrogiovanni. Come stanno andando i Tigers senza di te? Stella proprio, guarda, non lo penso, però guarda, io oggi hanno vinto benissimo, 60-16, penso che sia finita. Sì. E niente, non hanno bisogno di me neanche loro, non preoccuparti. Neanche avrà bisogno della nazionale, perché penso che ci sono dei piloni fortissimi, anche io penso che tanto Ciango come Totò sono più bravi di me comunque. Ma smettila per favore, la smetta per favore. No, poi sono amici, devo fare la pubblicità, sai com'è. Senti Martino, cosa chiediamo alla stagione azzurra? Tu personalmente che cosa chiedi alla stagione azzurra? Perché per i Sei Nazioni ovviamente ci sarai pronto, abile, arruolato. Che cosa possiamo chiedere a questa stagione? Io prima spero di essere arruolato, perché sai, ancora una sala al PVLG è una cosa, sì, una cosa lunga. Io penso che soprattutto fare minimo come l'anno scorso, ma io penso che noi puntiamo a fare meglio, nel senso che dobbiamo ancora un'altra vittoria, vogliamo un'altra vittoria, e penso che soprattutto dobbiamo trovare il nostro gioco, che non sarà facile, però come ti ho detto dobbiamo aspettare e vedere come, perché parlarne prima è facile. Tanto adesso domani comincia il raduno, c'è la stagione dei test match alle porte, abbiamo chiuso con una bella vittoria in Argentina, sperando di ripartire in quella maniera. Vedi qualche ragazzo pronto a esplodere per quanto riguarda sempre la maglia azzurra? Guarda, io seguo il rugby italiano da casa là in Inghilterra, perché c'ho Sky Italiano là e, sì, lo guardo, sì, e lo guardo là, però io ti dico, ci sono tante, io soprattutto perché noi facciamo allenamento con i ragazzi di Under 21, sai, quando sei nazionale, certo. Io penso che ci sono tanti ragazzi, però io penso che il nostro grande problema è soprattutto la competizione, perché quello, sai, i ragazzi possono avere tutto il futuro possibile, però se tu non c'hai un campionato come in Inghilterra, come in Francia, i giocatori non crescono, hai capito? Perché quello che è successo oggi si è visto, io penso che Treviso è stato in partita all'inizio del secondo tempo, sì, sono messi a un punto e dopo la partita è finita a 16-60, sì, sì. E soprattutto quell'incontro fisico che tu hai in altri campionati che non c'è qui, io penso che bisogna fare qualcosa, non di cambiare il campionato per fare un'altra competenza come ha detto la Celtic League, perché tu puoi avere il potenziale, però devi giocare a un certo livello per diventare veramente bravo, e è quello che secondo me gli manca al rugby italiano, perché se tu vedi quasi la base della nazionale sono quasi tutti fuori, allora io penso che i giocatori ci sono, basta diciamo invertire il tempo giusto, soprattutto invertire a futuro in un campionato qualcosa più, diciamo, più competitivo, no? Ma sono d'accordissimo con te, ma poi abbiamo bisogno anche dal punto di vista dell'immagine, avremmo bisogno, io capisco le differenze di budget, no? Tra l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, che sono enormi, però io ho sempre pensato che dal punto di vista dell'immagine avremmo bisogno di vedere nel nostro campionato quei giocatori che la gente, che il grande pubblico conosce con la maglia azzurra, da Castrogiovanni a Parisse, a Bergamasco, a Canale, tutti quanti qui nel nostro campionato. So che è impossibile, però sarebbe il cartellone per rilanciare il rugby. Impossibile non è, perché lo fanno in Irlanda, lo fanno in Galles. Io ti dico, fare una cosa e presentare ai giocatori, diciamo, un gran progetto a futuro, perché non è solo, certo, non è solo, io te lo dico come giocatore, non dico che sia tutto i soldi, sì, però è importante anche dove giochi, per chi giochi, perché tu ovviamente il giorno che tu non vuoi più giocare andrai a cercare i soldi, ma intanto che tu puoi giocare, tu vai a cercare la diversione, a giocare contro i migliori e fare confronto contro i migliori e basta, è tutto lì. Ovviamente che i soldi aiuta, perché i soldi non è che fa solo la felicità, ma aiuta tanto, però io penso che a parte i soldi i giocatori hanno bisogno di un futuro e di una competizione soprattutto molto, molto interessante, perché è quello che cercano i giocatori, per quello che sono andati via tanti giocatori, non solo per i soldi ma anche per... Perché vai a giocare con i migliori, sono d'accordissimo con te, insomma, esatto. Vai per vincere la Heineken Cup, vai per vincere i grandi campionati. Martin, grazie, in bocca al lupo. Ti aspettiamo per dicembre-gennaio, non più tardi. Ok, speriamo, va bene. Bocca al lupo, un abbraccio. Grazie a Martin Castrogiovanni. Pilone azzurro, lo ripeto, stella del nostro rugby, che lui ne dica. Adesso viriamo sulle due ruote, perché c'è da raccontare quello che ha fatto oggi, ed è tanto, tanta roba, che ha fatto oggi Damiano Cunego al Giro di Lombardia. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo. Allora, sul Civiglio il Principino prende e se ne va e vince per la terza volta il Giro di Lombardia. Che corsa ha fatto? Beh, guarda, Cunego ha fatto quello che molti si aspettavano che lui facesse. L'ha fatto in un modo bellissimo, perché partiva da numero uno, col numero uno, visto che l'anno scorso era stato lui a vincere il Giro di Lombardia. Forse aveva tutto da perdere, poco da guadagnare, perché adesso magari qualcuno dirà era logico, mancavano anche tanti protagonisti. Va sottolineato che i molti protagonisti, da Riccò a Sella, Cancellara, erano ai box per questioni o di squalifiche o di sospetto di squalifiche, quindi mai come questa volta gli assenti non solo hanno torto, ma hanno veramente la coscienza sporca. Quindi il ciclismo che si sta pulendo deve, a tutti gli effetti, applaudire chi a questo Giro di Lombardia ha partecipato. Certo. E comunque il signor Cunego ha battuto fior di corridori, a cominciare da Samuel Sanchez, campione, che è stato anche lui protagonista oggi, medaglia d'oro a Pechino. Comunque c'era un signore che risponde al nome di Cadel Evans, secondo al Tour de France. I corridori c'erano, e in ogni caso Cunego, che era rimasto felice a metà, felice per il titolo mondiale conquistato dal compagno di squadra Alessandro Ballan, felice di aver nuovamente avuto delle conferme forti nelle corse di un giorno, e quindi dopo un'estate amara fatta di stacchi e cadute come al Tour de France, si è riconfermato uomo capace di vincere le grandi corse di un giorno. E così, in questa stagione un po' difficile, tribolata, dove comunque spiccava fino ad oggi l'Amstel Gold Race, che è comunque la gara più importante d'Olanda, una delle grandi corse a livello mondiale, ha vinto uno dei cinque monumenti, perché dobbiamo ricordare che come nel tennis e come in qualsiasi specialità sportiva esistono delle gare che sono più gare delle altre. Sì. Nel ciclismo sono cinque, sono la Milano-Sanremo, sono il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia. Bene, Cunego vince per la terza volta un monumento del ciclismo mondiale, lo vince, ed entra in un club ristrettissimo dove neanche Bernardino è dimerso per fare o no dei nomi. Mettiamoci anche Felice Gimondi, mettiamoci anche Moser, mettiamoci chi volete, mettiamoci voi nella storia del ciclismo. Saronni, mettiamoci Moser, Saronni e Bettini, che l'hanno vinta due volte, però raggiunge appunto Pellissier, per dire Girardengo, Gino Bartali, Tano Bellone, il primo campionissimo della storia del ciclismo. Ha vinto in solitaria con un grande, innanzitutto con una condotta di gara esemplare, gestendo la squadra come meglio non avrebbe potuto. La Lampre è stata impeccabile, poi l'ha portato sulla rampa di lancio del Civiglio, poi ha fatto una discesa veramente da vero equilibrista del pedale, mettendo probabilmente anche sulla strada le sue doti di rallista, visto che la sua vera passione sono i rally, come nel DNA, visto che suo papà è un ottimo rallista dilettante. Ha sfiorato marciapiedi e stipiti, è arrivato con 30 secondi di vantaggio su Brajkovic, Uran, un corridore italiano che farà parlare sempre più di sé, che è Giovanni Visconti, che quest'anno ha vestito la maglia rosa al Giro d'Italia, si è fatto vedere e ha ereditato, così è stato battezzato da Paolo Bettini, appunto l'erede, ha ereditato lo scettro del due volte campione del mondo. Ottimo sesto posto ad esempio di un ragazzo neoprofessionista al suo primo anno, Mauro Finetto, prendete nota di questo nome. Poi ottavo è arrivato Stefano Garzelli, e decimo un altro ragazzo come Francesco Failli. Quindi ci sono due o tre giovani molto interessanti. Cunego è una garanzia, i dibattiti sono aperti, perché sappiamo benissimo che Cunego ha fatto segnare sin da subito l'eterno età, dibattito per la vittoria al Giro d'Italia. Nelle grandi corse a tappe ha un po' faticato, ha sofferto e non è riuscito a mantenere quelle attese che lui stesso si aspettava, però nelle corse di un giorno forse ha tutto per poter diventare un piccolo cannibale come lo è stato Paolo Bettini. Deve capirlo per primo lui, perché è lui ad essere roso da questa diatriba. Il giro è grande, la grande corsa a tappe la voglio, ma non riesco a vincerla. Le grandi corse di un giorno le vinco quasi senza volerlo. Sto esagerando, però sembra quasi così. Si concentrasse soltanto su quelle, potrebbe. Insomma, sappiamo che Cunego è ancora molto giovane. Binda ne ha 4, Fausto Coppi ne ha 5. Di giri di Lombardia potrebbe anche diventare il così, raggiungere addirittura Fausto Coppi da questo punto di vista. Per Augusto voglio chiederti ancora una cosa molto rapidamente. Adesso si parla dei grandi rientri, no? Lasciamo stare Lance Armstrong, un'altra volta ne parliamo con calma, ma c'è Ivan Basso che sta per tornare. Come tornerà secondo te? Tu che lo conosci come nessuno forse. Guarda, Ivan torna con una voce, guarda, ti posso dire che immediatamente poco fa ho ricevuto un messaggino proprio da Ivan che mi chiedeva: ma in Giappone ci sarà anche Cunego? E la mia risposta è stata affermativa, quindi Ivan è già proiettato e voleva sapere se anche Cunego farà parte della Japan Cup, che segnerà il suo ritorno. Ha una voglia matta di far bene, una voglia matta di tornare a pensare, a respirare l'aria del corridore. Sono stati 2 anni lunghi, a tratti anche dolorosi. Credo che li abbia superati con grande sobrietà, con quel giusto rapporto che bisogna avere, anche rispetto nei confronti dei tifosi, tanti tifosi delusi. Adesso li dovrà riconquistare con l'impegno, con la benegazione, con la sua forza. Io credo che abbia tutto per poter tornare a recitare il ruolo che gli compete, perché lo confermano i numeri, lo confermano anche i dati del centro di Castellanza, di Mapei Sport, del professor Aldo Sassi. Il suo motore è un motore naturalmente di alta cilindrata, è un atleta che ha una testa e una volontà come pochi ce ne sono in gruppo, e quindi mi auguro che nel 2009 ci siano degli elementi importanti per poter sorridere e godere dello spettacolo che il ciclismo può dare, come un Valentino Rossi ci inebria con i suoi volteggi nella MotoGP. Ma chiaro che è così, lo aspettiamo adesso la Japan Cup con Cunego a rompere le scatole, giusto per respirare l'aria della gara e poi a fare sul serio dal 2009. Grazie per Augusto, grazie davvero, grazie, buon lavoro. Palla ovale. Ecco che torniamo, poi se vai vi faccio sentire anche la voce di Cunego insieme ad altre di stampo più calcistico, da Mourinho a Spalletti a Ranieri. Però voglio dirvi che ho qui sotto gli occhi 2 quotidiani di oggi aperti. Ho pagina 16 della Stampa, dove c'è un articolo: Abramovic è più povero, nozze rinviate, il matrimonio con Dasha doveva essere il top del lusso. Ma pare che Roman Abramovic, patron del Chelsea, abbia detto alla sua bella un matrimonio faraonico che doveva toccare Mosca, New York, Londra, poi concludersi alle Maldive, insomma una sorta di matrimonio itinerante in giro per il mondo. Però gli ha detto: tesoro, aspetta che non è il momento, perché ho perso quei 20 miliardi di dollari negli ultimi giorni alla borsa di Mosca e forse non è proprio il caso. Ho anche pagina 64 di Repubblica, sponsor, marketing e tifosi, Ronaldinho, antidoto alla crisi, 18.000 magliette già vendute con il numero 80 di Ronaldinho. Facendo 1+1 mi viene da pensare che per una volta Abramovic abbia sbagliato anche la scelta dei giocatori da prendere. Vorrei parlare con chi ha scritto l'articolo su Ronaldinho sulla Stampa, cioè mio amico Andrea Sorrentino. Ciao Andrea. Ciao Carlo, ciao, buongiorno a tutti. Su Repubblica, su Repubblica, su Repubblica, Stampa Repubblica in palleggio, Stampa Repubblica in palleggio, però in palleggio anche Ronaldinho tra queste 18.000 magliette, e forse Abramovic ha sbagliato anche i conti sul Chelsea. Ma qui è un fatto incontrovertibile, l'effetto Ronaldinho si sta facendo sentire sul Milan, io credo che tra poco si farà sentire anche a livello tecnico, che già nel derby è successo. Ma di sicuro si è sentito a livello di bilancio e di fatturato pubblicitario, perché c'è stata una poderosa crescita degli sponsor del Milan. Il Milan tra l'altro quest'anno, grazie anche all'effetto Ronaldinho, ha completato il quadro degli sponsor possibili per una squadra di Serie A, perché proprio non ci sarebbe più spazio per esporli nei 90 minuti della partita. Davvero, sono in tutto 46, tra sponsor ufficiali, sponsor tecnici, insomma sì, ci sono varie gradazioni di sponsorizzazione. E il Milan ha il sold out ormai, perché non può ospitarne altri, che ne sono arrivati di nuovi con Ronaldinho. C'è stato un boom della vendita delle magliette, come dicevi tu, sul sito. Il sito ha delle pagine viste che sono quasi 30 milioni al mese, tutto dovuto all'acquisto di Ronaldinho a metà del luglio scorso, ed è un fatto. E Galliani insomma si prende qualche rivincita in questo periodo, perché un po' tutti gli abbiamo detto in estate che quello di Ronaldinho era un acquisto soltanto mediatico, ma lui dice un club come il nostro, un club di altissimo livello nel mondo, deve anche fare degli acquisti mediatici che siano però allo stesso tempo anche degli acquisti tecnici, funzionali alla squadra, perché sennò se torniamo al discorso del Real Madrid e Galacticos, no? È un po' quello, la vendita delle figurine in giro per il mondo, e va benissimo nel calcio di oggi, però poi ci vogliono anche i giocatori di pallone. Poi Galliani, in realtà, col quale io stesso spesso sono stato critico, però in questo caso bisogna dargli ragione, lui dice che negli ultimi anni le squadre che vanno in finale di Champions League, quindi le migliori, sono anche quelle che hanno i fatturati più alti, ed è così, quindi una gestione oculata dal punto di vista commerciale porta evidentemente in questo calcio del 2000 anche dei benefici tecnici, se si riesce a contemperare tutte e due le cose, poi ovviamente bisogna saperlo fare. Il Milan per adesso, ecco, sta subendo in positivo questo effetto Ronaldinho sul bilancio, che però comunque sarà in passivo quest'anno, attenzione, perché poi senza la Champions è inevitabile, e sta aspettando l'effetto Ronaldinho anche sulla squadra. Nel derby, come dicevamo, c'è stato, perché 1-0 sull'Inter, gol di Ronaldinho. Da domani contro la Samp vedremo, ma pare che ci sia un Ronaldinho molto in crescita di condizione, che sia molto meglio fisicamente, quindi sono tutti molto fiduciosi almeno. E d'altra parte, ne avevamo detto prima, no? Questa sosta con la nazionale, lui che non è stato convocato per il Brasile, servirà proprio a lavorare su Ronaldinho, quindi domani è partita molto importante, soprattutto da questo punto di vista, per il Milan e per Ronaldinho, per capire veramente se i progressi sono stati realizzati. Oggi Ancelotti ha detto una cosa strana, l'avrai sentito in conferenza stampa, credo, dire: voglio diventare allenatore con più panchina al Milan e poi andare ad allenare una nazionale, non l'Inghilterra, non la Germania, non l'Italia, gli piacerebbe una nazionale africana. Ma scherzava? Guarda, io alla fine della conferenza sono andato a chiedere davvero, perché ma davvero dici, Carlo, questa cosa? Lui ha detto sì, perché no? Allora, che era un pensiero che non aveva mai espresso né così confidato a nessuno, insomma è una notizia. Lui ha questa passione per il calcio africano, lui vorrebbe una nazionale che, dice, con delle potenzialità non blasonata, insomma una cosa, un progetto da far crescere. Ha nominato la Nigeria e il Camerun come esempi. Io Carlo Ancelotti in Camerun non ce lo vedo ancora, non benissimo. Però chissà, lui comunque vuole arrivare a Rocco, domani fa 382 panchine nel Milan, e Rocco è a 459, quindi ne mancano ancora 77, insomma c'è ancora parecchio. Sì, dice fine del contratto, quindi quest'anno più il prossimo, e poi vado a fare l'africano, dice Carlo Ancelotti. Vedremo c'è stato già qualcuno che ha detto questa cosa qualche anno fa, è rimasto in Italia. Senti Andrea, invece venendo alle partite di oggi, in particolare a quella di stasera, quanto si gioca la Juventus secondo te stasera al San Paolo? Chi si gioca molto è senz'altro Claudio Ranieri. Poi la Juve, sai, è lì, il campionato è ancora lunghissimo. Nella peggiore delle ipotesi, la Juventus dovesse perdere questa partita e una delle tre in testa alla classifica dovesse vincere, la Juve andrebbe a meno 7, che è già certo un divario di rilievo, però non è una cosa che ti chiude le porte per la lotta per lo scudetto. Di sicuro è Ranieri che stasera aspetta delle risposte dalla squadra, perché comunque le voci che sono circolate sul suo futuro in bilico non erano campate in aria, e probabilmente non venivano neanche da qualcuno del club, ma molto probabilmente da qualcuno che fa parte dello spogliatoio della Juve, che quindi certe cose le sa, le avverte. Quindi evidentemente intorno a Ranieri c'è un'area un po' particolare, ma proprio all'interno della Juve. Vedremo se stasera i giocatori soprattutto quelli che magari non lo stimano tantissimo, che ce ne sono e si è capito, daranno qualcosa in più anche per il loro allenatore. Del resto non ci sono sostituti possibili in questo momento della stagione, secondo me, per Ranieri. Mi sembrerebbe una decisione molto, sì, molto ingiusta, ma anche perché se a Ranieri si imputa un'errata valutazione in sede di campagna acquisti, è fin troppo chiaro che gli acquisti sono stati fatti con l'avallo pieno del club e dei dirigenti. No, poi abbiamo spiegato molte volte le strane procedure che regolano il mercato della Juventus, no? Tutto passa, l'abbiamo detto molte volte, lo saprei meglio di me, passa attraverso il consiglio d'amministrazione per alzata di mano. Chi vuole Poulsen? Io sì, favorevole, sì, contrari, sì, astenuti, ok, allora si compra Poulsen per tot milioni. Non è esattamente il modo più trasparente, ma non è esattamente la normale conduzione delle trattative calcistiche, esatto, in sede di mercato. Quindi, insomma, a maggior ragione, insomma, se c'è stata un appoggio unanime o quasi del consiglio d'amministrazione, non vedo perché il consiglio d'amministrazione dovrebbe defenestrare un allenatore in cui ha creduto. Quindi secondo me c'è una parte, sì, di malumori dello spogliatoio che sono sfociati in una campagna giornalistica molto forte, però poi c'è anche un club, una dirigenza che prende delle decisioni e secondo me le prenderà sempre in un senso, cioè mantenere e dare ancora la fiducia a Ranieri, anche perché, ripeto, le ipotesi che si fanno, non so, il Ciro Ferrara della situazione mi sembrano un po' campate in aria. Forse Ciro Ferrara segnerebbe anche un certo tipo di restaurazione dirigenziale alla Juve, che probabilmente non è in linea con i dirigenti di adesso, ecco, mettiamola così. Sì, quindi sì, mi sembrerebbe strano. Andrea, grazie, buon lavoro. A voi. Grazie per essere stato con noi. Andrea Sorrentino di Repubblica. Dunque siamo partiti da Ronaldinho e dai conti del Milan, anzi siamo partiti da Abramovic per la verità e dal suo faraonico matrimonio al momento rimandato per questioni economiche. Siamo arrivati a Ranieri, che prima della pausa vorrei farvi sentire, se possibile, in anteprima, cioè in conferenza stampa alla vigilia di questa delicatissima trasferta a Napoli. Sentiamo cosa ha detto Ranieri. Sappiamo quello che dobbiamo affrontare, sappiamo che il Napoli è un'ottima squadra, che sta attraversando un buon momento, che in casa ha costruito tutta la sua autostima, convinzione, sappiamo questo. Però ci piace confrontarci, ci piace reagire. Ci sono degli anni dove ci sono delle difficoltà, dove poi ci sono degli infortuni, poi dopo ci sono dei pareggi, dopo ci sono la sconfitta. Questo fa parte del nostro gioco, del nostro mondo. E noi dobbiamo sempre essere molto leali con noi stessi, molto determinati, e soltanto lavorando e migliorando se ne viene fuori. Ripartiamo come sempre, che siamo una squadra unita, una società unita, è logico, per le nostre aspettative stiamo facendo meno. E per cui è giusto che la società ci è venuta a stare vicino in questo momento, dandoci tutto il supporto possibile, e noi dobbiamo rispondere sempre sul campo, perché quello che conta è la risposta sul campo. Uno spogliatoio unito, uno spogliatoio che vuole con determinazione ottenere gli obiettivi che abbiamo prefissato. Sono tutti uniti, per cui non ho mai avuto una società, uno spogliatoio così unito. Tutto unito nella Juventus, secondo Ranieri, questo concetto ripetuto in maniera ossessiva. Questa sera ce lo spiegherà il campo, se la Juventus è davvero così unita come Claudio Ranieri dice. Palla ovale. Eccoci tornati, ancora 8 minuti per stare insieme, per parlare, tra poco lo faremo, di Formula 1 e della griglia di partenza che vedremo domani mattina, ore 9 italiane a Shanghai. Però prima vi do un rapido aggiornamento sui risultati di Serie B. Siamo negli ultimi minuti delle partite. Il Parma vince 1-0 con l'Empoli, risultato importante per gli emiliani, gol di Papone al 36esimo della ripresa. Mantova sempre in vantaggio sul campo del Sassuolo, 2-1. Si gioca a tennis a Grosseto, i toscani volano in questo momento, primi in classifica provvisoria, al pari dell'Empoli. Stanno battendo 6-2 la Salernitana, 6-2, ripeto. Brescia, che dopo il gol della Triestina e della Rocca si è arrabbiato, Caraccioli, Zoboli e Zetela, 3-1 sugli alabardati, dunque 2-1 dell'Avellino sul Bari. Il Vicenza sta vincendo 4-0 a Bergamo con l'Albino Leffe, Cittadella Livorno 0-0, Frosinone 3, Rimini 1, Pisa Treviso 1-1, risultati ancora parziali perché le partite stanno finendo. Vorrei però rimanere sulle Voci calcistiche della vigilia, domani sarà il giorno, anzi la sera, la notte di Roma-Inter, partitissima di questa settima di campionato. Ebbene, Mourinho oggi in conferenza stampa ha spiegato come si vince un campionato. Volete sentire cosa ha detto? Eccolo. Qualcuno si è dimenticato, ma io ho vinto 4 campionati. Io so come si vince il campionato. Il campionato si vince quando si arriva nell'ultimo giorno con più punti degli altri. Il campionato non si vince perché tu vinci un derby o perché tu è molto forte nelle partite fra i candidati. Il campionato si vince quando tu arrivi nell'ultimo giorno con più punti degli altri e per arrivare tu devi essere il più regolare, non devi perdere punti stupidi in partite che di solito si vince sempre, e così si vince il campionato. Dunque, avete sentito, il campionato si vince così, è una corsa a tappe, e se sei primo all'ultimo giorno vinci il campionato, dice Mourinho. Non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto oggi. Dunque, la notizia della vigilia di questa partita è invece la convocazione di Francesco Totti per la partita di domani. Ma giocherà? Non si sa ancora, non è ancora chiaro. Sentiamo Spalletti. Anche altri che aspetto e che sono convinto poi possano dare un contributo. Lui, visto che ho sempre detto che poi ha qualcosa di diverso dagli altri, probabilmente anche in questo senso lui può dare quel qualcosina in più proprio per la figura che ricopre dentro il nostro contesto. Ecco. Dunque, lo scopriremo domani se Francesco Totti sarà in campo. Comunque è tra i convocati una Roma, ma anche l'Inter, con non poche difficoltà dal punto di vista dell'organico, soprattutto in difesa. Sono reparti un po' da inventare. Mourinho oggi non ha detto molto per quanto riguarda la formazione di domani, però le scelte sembrano quelle difensive obbligate, quelle offensive già scritte, anche se c'è Balotelli che scalpita. Però l'impressione è che domani si rivedrà la coppia Ibrahimovic-Adriano davanti. Domani mattina invece vedremo un gran premio della Cina, determinante per gli equilibri di questo mondiale. Hamilton difende i ben noti 5 punti di vantaggio su Felipe Massa. Li difenderà però partendo dalla pole position. Accanto a lui Raikkonen, Massa in terza linea insieme ad Alonso. Quarto tempo per lo spagnolo che ha vinto le ultime due gare. Mario Poltroneri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo. Dunque Hamilton sembra pronto a zannare il mondiale. Diciamo subito che la prima curva, che di solito è così importante, qui diventa importantissima perché è una curva a destra di 270 gradi seguita da una curva a sinistra di 180, quindi chi riesce a passare indenne quelle due curve ha già messo un po' di mattoni sulla costruzione di un risultato positivo. Quanto allo schieramento di partenza, che ripete poi la prima fila della gara precedente, bisogna vedere se Raikkonen riesce a riportarsi di nuovo davanti a Hamilton, perché questo modificherebbe sostanzialmente la gara. Poi bisogna vedere Alonso quarto, è pericoloso anche lui per Hamilton, perché appunto vedevo ieri un sondaggio che tra l'altro mi ha lasciato perplesso, ma che però indica un po' la situazione, cioè 38% sono a favore o simpatizzano per un successo sia di Massa sia di Kubica, che praticamente è tagliato comunque fuori dai giochi salvo sì, problemi aritmetici, mentre solo il 24% ha simpatia per Hamilton. Quindi evidentemente è riuscito a raccogliere un numero, diciamo, sufficiente di voti negativi, per cui tra tutti quelli con i quali corre non ce n'è nessuno veramente amico. Questo può essere una situazione difficile, perché anche solo ritardare di molto un sorpasso può modificare sostanzialmente la gara. Quindi se parlassimo di una gara che si svolge in modo assolutamente regolare, è chiaro che Hamilton ha un leggero vantaggio, ma la Ferrari dovrebbe avere, dico dovrebbe perché anche le altre volte non mi ha poi dato la sensazione che la McLaren stessa male, la Ferrari dovrebbe avere il vantaggio di gomme che reggono di più il passo gara. Quindi sì. Diciamo che i due partono più o meno nelle stesse condizioni, però siccome abbiamo visto questi interventi a pioggia, anche esagerati, dei commissari, una quantità abnorme di safety car, qualche incidente, qualche rottura che dimostra affidabilità, questa stagione è minore anche per team che una volta l'avevano tradizionalmente come la Ferrari, confonde completamente le carte, quindi direi è difficilissimo fare delle previsioni. E domani allora ragioniamo con i risultati alla mano e magari parliamo anche dei cartellini di Eccleston, di questa trovata del vecchio Bernie che ieri se ne è uscito con una serie di idee sul futuro della Formula 1, su cui varrà la pena di discutere. Formula 1 che però intanto comincia a, non solo Abramovic di cui parlavo prima, ma anche la Formula 1 a risentire il peso della crisi con il Gran Premio di Francia, che ad esempio è stato cancellato dal calendario dell'anno prossimo in attesa di tornare a quanto pare a Euro Disney, e non stiamo scherzando. Ma ne parliamo con calma domani e con il risultato della corsa in mano, Mario. Grazie. Certo, arrivederci. Grazie a Mario Poltronieri. Io faccio giusto in tempo a darvi i risultati della Serie B, che sono a questo punto quasi tutti finali. È finale quello di Parma, con il Parma che ha battuto 1-0 l'Empoli con il gol di Paponi. È finale anche la vittoria a sorpresa del Mantova sul campo del Sassuolo, che era passato in vantaggio con Zampagna, quindi Caridi al 36esimo del primo tempo su rigore, al quinto della ripresa Passoni, ex livornese, che decide questa partita. Il Grosseto batte 6-2 la Salernitana e anche in questo caso è risultato finale, e anche in questo caso abbiamo una nuova capolista accanto all'Empoli, è proprio il Grosseto che sta volando. Il Brescia sta battendo 3-2 la Triestina, qui ancora non abbiamo il finale di partita, così come è ancora le ultime battute Avellino-Bari, 2-1 per l'Avellino, manca il fischio finale ma non la vittoria del Vicenza. A Bergamo con l'Albino Neffe siamo sul 4-0 per i biancorossi del Vicenza, 0-0 tra Cittadella e Livorno, finale anche a Frosinone con il Frosinone che batte 3-1 Rimini, e il Pisa che sta vincendo 2-1 sul Treviso, il gol di Gasparetto al 49esimo della ripresa, quindi in pieno recupero. Abbiamo dunque Grosseto ed Empoli 18 punti, Sassuolo 16, Vicenza Triestina 15, Salernitana 14, Mantova, Bari, Brescia e Albino Leffe 13, quindi Ancona, Livorno e Pisa 12 punti, Parma e Frosinone 11, a 9 punti troviamo Ascoli e Piacenza, con 6 punti Cittadella, con 5 Modena e Rimini, con 3 punti Treviso e Avellino in attesa del posticipo che si gioca lunedì e che è Piacenza-Ascoli. Chiudiamo qui il programma, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia, ci sentiamo domani pomeriggio con A Tempo di Sport a partire dalle 17.